bianco e rosso, mi passa e vola, sembra una Coca-Cola. E sto cantando al chiaro di una luna che piano piano si sta spegnendo, con la felicità di un uomo che a casa una donna che l'aspetta, una stazione aperta tra gente che sta lavorando e gli altri stanno dormendo. C'è un castello sopra una collina verde che mi sta guardando. Per chi non dorme, per chi come te mi sta aspettando, per chi lavora senza sosta e dal sonno sta cadendo, tra i fuochi accesi nella notte, donne senza volto che stanno aspettando e viene il giorno. 200 miglia senza sosta è una canzone un po' diversa che io sto cantando. Chissà perché vorrei i tuoi fianchi, vorrei incontrarmi coi tuoi occhi, ma non li sto vedendo. E viene il giorno, colline verdi se ne va, via, via, e va, la notte se ne va, un casello, un fiume, una città, oh, la notte se ne va, un grido senza fine, poi chissà.